E Frederick iniziò a raccontare di quella sua fidanzata spagnola. Innanzitutto è cattolica. Questa è l'unica riserva, ve lo dico subito. Ma ha i dubbi di fede di mio padre. Oh, su via, Margaret, non sospirare. Margaret aveva motivo di sospirare ancora un po' prima che la conversazione finisse. In realtà lo stesso Frederick era cattolico, anche se non praticante. Quindi era questa la ragione di quella comprensione che aveva espresso vagamente nelle sue lettere per il grande dolore di Margaret quando il padre aveva abbandonato la chiesa. Aveva pensato che si trattasse di quella leggerezza che hanno i marinai, ma la verità era che allora stava già pensando di lasciare la religione nella quale era stato battezzato, soltanto che le sue idee andavano nella direzione esattamente opposta a quella del padre. Quanto l'amore avesse a che fare con questo cambiamento, neanche Frederick era in grado di dirlo. Alla fine, Margaret smise di parlare di questo argomento e, ritornando alla questione del fidanzamento, iniziò a considerarlo sotto una nuova luce. Ma per amor suo, Fred, devi di certo cercare di liberarti dalle accuse montate contro di te, anche se l'accusa di ammutinamento in sé fosse vera. Se ci dovesse essere una corte marziale e riuscisse a trovare i tuoi testimoni, potresti in qualche modo dimostrare che la tua disubbidienza all'autorità è stata dovuta all'indegno esercizio dell'autorità stessa. Il signor Hale si destò per ascoltare la risposta di suo figlio. In primo luogo, Margaret, chi me li va a scovare i testimoni? Sono tutti marinai, arruolati in altre navi, eccetto quelli la cui testimonianza varrebbe molto poco, o perché presero parte loro stessi alla faccenda, o perché erano solidali con noi. In secondo luogo, permettimi di dirti che non sai cosa sia una corte marziale. La consideri come un'assemblea in cui ha sede la giustizia, invece di quello che è realmente un tribunale, il cui peso dell'autorità è di 9 decimi sulla bilancia e le testimonianze costituiscono appena il restante decimo. In casi come questo, gli stessi testimoni difficilmente riescono a evitare di essere influenzati dal prestigio dell'autorità. Ma non vale la pena di provare a vedere quanti testimoni possiamo trovare disposti a deporre in tuo favore. Attualmente tutti coloro che ti conoscevano credono che tu sia colpevole, senza neanche l'ombra di una scusa. Non hai mai cercato di discolparti e noi non abbiamo mai saputo dove cercare le prove della tua giustificazione. Ora, per amore della signorina Barbour, fai che la tua condotta sia più pulita che puoi agli occhi di tutti. Lei può non preoccuparsene. Sono sicura che anche lei ha completa fiducia in te, come noi, ma non dovresti lasciare che sposi uno su cui pende un'accusa così grave, senza dimostrare come sono andate esattamente le cose secondo te. Hai disobbedito all'autorità, il che non è stato giusto, ma essere rimasto a guardare senza dire né fare nulla, mentre l'autorità veniva usata in modo crudele, sarebbe stato infinitamente peggio. La gente sa quello che hai fatto, ma non sa i motivi che elevano il crimine ad atto eroico per proteggere i più deboli. Per amore di Dolores, devono sapere. Ma come faccio a farglielo sapere? Non sono abbastanza sicuro della trasparenza e dell'imparzialità di quelli che saranno i miei giudici per consegnarmi a una corte marziale, anche se riuscissi a portare tutta una serie di testimoni che dicono la verità. Non posso mica mandare un banditore in giro per le strade ad annunciare gridando quello che ti piace definire il mio eroismo. Nessuno leggerebbe un opuscolo in cui mi giustifico così tanto tempo dopo il fatto se ne mettessi uno in circolazione. Consulteresti un avvocato in merito alle possibilità che hai di essere scagionato? Chiese Margaret sollevando lo sguardo e diventando tutta rossa. Devo prima trovarlo il mio avvocato e devo guardarlo bene per vedere se mi piace, prima di farlo diventare il mio confidente. Un avvocato senza clienti potrebbe ingannare la sua coscienza pensando alla possibilità di guadagnare 100 sterline con grande facilità facendo una buona azione, ovvero consegnando me un criminale alla giustizia. Oh, sciocchezze, Frederick, perché io conosco uno stimabile avvocato di cui mi posso fidare, della cui professionalità la gente parla molto bene e che penso si farebbe in quattro per un parente di zia Shaw, il signor Henry Lennox, papà. Penso sia una buona idea, disse il signor Hale, ma non proporre nulla che trattenga Frederick in Inghilterra, non farlo per amore di tua madre. Potresti prendere un treno notturno per Londra domani sera, continuò Margaret, tutta presa dal suo piano. Dovrà partire domani, temo, papà, disse teneramente. Abbiamo deciso così a causa del signor Bell e dell'odioso conoscente di Dixon. Sì, devo andare via domani. disse Frederick con tono deciso. Il signor Hale brontolò. Non ce la faccio a sopportare di separarmi da te. Eppure, finché sei qui, sto davvero in pena. Bene, allora, disse Margaret, ascolta il mio piano. Arriverà a Londra venerdì mattina. Scriverò e potresti. No, la cosa migliore è che io gli dia un biglietto per il signor Lennox. Lo troverai nei suoi uffici nella zona di Temple. Scriverò una lista di quelli che, per quanto riesco a ricordare, erano a bordo dell'Orion. Potrei lasciargliela, così li cerca lui. È il fratello del marito di Edith, vero? Ricordo che lo nominavi nelle tue lettere. Ho lasciato dei soldi in mano a Barbour. Posso pagare una parcella sostanziosa se c'è qualche probabilità di successo. Soldi, caro papà, che avevo destinato a tutt'altro scopo. Così dovrei solo considerarli un prestito da parte tua e di Margaret. Oh, non considerarlo tale, disse Margaret, altrimenti non li rischierai e sarà rischioso, solo che vale la pena provarci. Puoi salpare sia da Londra che da Liverpool? Beh, certo, sciocchina, ovunque io sento l'acqua che ondeggia sotto un'asse, lì mi sento a casa. Salperò con la prima imbarcazione che mi prenderà a bordo, non temete, non resterò 24 ore a Londra, da un lato lontano da voi e dall'altro lontano da un'altra persona. Fu quasi un conforto per Margaret che Frederick avesse avuto l'idea di mettersi dietro di lei a guardarla mentre scriveva al signor Lennox. Se non fosse stata obbligata a continuare a scrivere in quel modo così pacato e conciso, avrebbe magari esitato su molte parole e sarebbe magari stata confusa sulla scelta di molte espressioni, nell'imbarazzo di essere la prima a riprendere quel rapporto che si era concluso con un evento così spiacevole per entrambi. In ogni caso, il bigliettino le fu tolto di mano prima che avesse il tempo di rivederlo e venne messo in un taccuino dal quale fuoriuscì un lungo ricciolo di capelli neri, alla vista del quale gli occhi di Frederick brillarono di gioia. «Adesso ti piacerebbe vedere questo, non è vero?» disse lui. «No, devi aspettare di vederla di persona. È troppo perfetta perché tu la possa conoscere per un solo particolare. Nessun misero mattone potrà mai rendere l'idea del mio palazzo». 32 disavventure. Tutto il giorno seguente sedettero insieme loro tre. Hale non parlava mai, se non quando i figli gli facevano delle domande, costringendolo, per così dire, a stare nel presente. Il cordoglio di Frederick non si vedeva né si sentiva più. La crisi iniziale era passata e adesso si vergognava per essersi fatto prendere così tanto dall'emozione. E per quanto il suo dolore per la perdita della madre fosse un sentimento vero e profondo, che sarebbe durato per tutta la vita, non bisognava più parlarne. Margaret, che all'inizio non si era mostrata così turbata, ora soffriva di più. Ogni tanto piangeva dirotto e i suoi modi, anche quando parlava di altre cose, rivelavano una tenera tristezza che diventava più intensa ogni volta che guardava Frederick e pensava alla sua partenza che rapidamente si avvicinava. Era contenta che partisse per suo padre, nonostante tutto il dolore che lei stessa avrebbe potuto provare. L'inquietante terrore in cui il signor Hale viveva, per la paura che suo figlio venisse scoperto e catturato, pesava molto di più del piacere che gli dava la sua presenza. Il nervosismo era aumentato dopo la morte della signora Hale, forse perché il figlio era diventato il suo pensiero fisso. Trasaliva ogni rumore insolito e non stava mai tranquillo, a meno che Frederick non fosse seduto al riparo dallo sguardo di qualsiasi persona che fosse entrata nella stanza. Era quasi sera quando disse: «Puoi andare con Frederick in stazione, Margaret? Voglio sapere che è partito sano e salvo. Mi porterai notizia che è lontano da Milton, in ogni caso». «Certamente», rispose Margaret, «lo farò con piacere, se non ti sentirai solo senza di me, papà». «No, no, se potessi dirmi che l'hai visto partire, eviterei di immaginare tutto il tempo che qualcuno lo abbia riconosciuto e che sia stato fermato. Mi raccomando, vai alla stazione di Outwood, è poco più distante e non c'è molta gente lì intorno. Prendi una carrozza, c'è meno rischio che venga visto». «A che ora è il tuo treno, Fred?» «Alle 6:10, sarà quasi buio. Allora, cosa hai deciso di fare, Margaret?» «Oh, posso farcela. Sto diventando molto forte e coraggiosa. La strada per tornare a casa è tutta ben illuminata, se dovesse essere buio. Comunque, la scorsa settimana ero fuori molto più tardi». «Margaret, fu grata quando gli addii terminarono, l'ultimo addio alla madre morta e al padre in vita. Sollecitò Frederick a salire in carrozza per abbreviare una scena che, come vedeva, faceva soffrire troppo il padre, che avrebbe accompagnato il figlio a vedere sua madre per l'ultima volta. In parte per questa ragione, e in parte per uno degli errori molto comuni nell'orario ferroviario, circa l'ora di arrivo dei treni nelle stazioni più piccole, arrivando a Outwood scoprirono che avevano quasi 20 minuti di tempo. La biglietteria non era aperta, quindi non poterono nemmeno acquistare il biglietto. Decisero di scendere la rampa di scale che conduceva al livello sottostante la ferrovia. C'era un largo sentiero di cemento che attraversava diagonalmente un campo situato al lato del binario e si recarono lì, passeggiando su e giù per i pochi minuti che rimanevano. La mano di Margaret era sotto il braccio di Frederick e lui la stringeva in modo affettuoso. Margaret, andrò a consultare il signor Lennox per sapere che possibilità ho di essere scagionato. Così magari potrò tornare in Inghilterra ogni volta che vorrò, più per amor tuo che per quello di qualsiasi altro. Non posso sopportare di pensarti da sola se dovesse succedere qualcosa a mio padre. Sembra così cambiato, terribilmente sconvolto. Vorrei che tu riuscissi a fargli considerare il progetto di Cadice per svariati motivi. Che cosa faresti se venisse a mancare? Non hai amici vicino. Stranamente abbiamo così poca gente intorno. Margaret riuscì a stento a non piangere per quella tenera preoccupazione con cui Frederick le metteva davanti un evento che lei stessa sentiva non essere del tutto improbabile. Così tante erano le tribolazioni che si erano riversate sul signor Hay negli ultimi mesi. Tuttavia, cercando di riprendersi, disse: Ci sono stati cambiamenti così strani e inaspettati nella mia vita in questi ultimi 2 anni che ora più che mai mi accorgo quanto non valga la pena fare calcoli troppo precisi sul futuro. Cerco di pensare solo al presente. Fece una pausa. Si erano fermati per un momento vicino alla scaletta che portava sulla strada verso il campo. La luce del sole, che tramontava, scese sui loro volti. Frederick le teneva la mano e con smaniosa agitazione guardava il suo viso. Leggendovi una preoccupazione e un'inquietudine ben più forti di quanto rivelassero le sue parole, Margaret continuò: Ci scriveremo spesso e ti prometto, perché vedo che ti fa stare più sereno, di riferirti ogni mio tormento. Papà è. Sussultò leggermente, un sussulto appena percettibile, ma Frederick sentì l'improvviso movimento della mano che teneva. E si voltò completamente verso la strada lungo la quale un uomo a cavallo avanzava lentamente, passando proprio davanti a quella scala dove loro si trovavano. Margaret si inchinò. Il suo inchino venne ricambiato con una certa rigidità. Chi è quello? Chiese Frederick quando poteva ancora essere sentito. Margaret aveva un'aria lievemente abbattuta e un leggero rossore le affiorò in viso mentre rispondeva: Il signor Thornton, se non sbaglio, lo hai già visto. Soltanto di schiena. Sembra un tipo sgradevole, che sguardo torvo che ha. Oh, qualcosa deve averlo contrariato, disse Margaret come dispiaciuta. Non lo avresti considerato sgradevole se lo avessi visto con la mamma. Credo che sia ora di andare a fare il biglietto. Se avessi saputo che si sarebbe fatto così buio, non avremmo rimandato indietro la carrozza, Margaret. Oh, non innervosirti per questo. Posso prendere una carrozza qui, se mi va, o tornare per la strada della stazione, affollata e piena di botteghe e lampioni, dalla stazione di Milton fino a casa. Non preoccuparti per me. Abbi cura di te. Sto male al pensiero che quel Leonards possa essere sul tuo stesso treno. Guarda bene nella carrozza prima di salire. Tornarono alla stazione. Margaret insistette per andare a prendere il biglietto all'interno, in piena luce al chiarore delle lampade a gas. Alcuni giovani dall'aria pigra se ne stavano lì in ozio con il capostazione. Margaret pensò di aver già visto in passato la faccia di uno di loro che in modo insolente la fissava con spudorata ammirazione e sentendo che la sua dignità veniva offesa, gli restituì un'occhiata sprezzante. Si affrettò a raggiungere il fratello che era lì fuori e lo afferrò per un braccio. Hai preso la tua borsa? Facciamo 2 passi qui sulla banchina, disse leggermente agitata all'idea che presto sarebbe rimasta sola e perdendo più coraggio di quanto volesse ammettere persino a se stessa. Udì i passi di qualcuno che li seguiva lungo il lastricato. Si fermavano quando anche loro si fermavano per affacciarsi sul binario e sentire il fischio del treno in arrivo. Non parlavano, avevano il cuore troppo pieno. Ancora un istante il treno sarebbe stato lì, ancora un minuto, e Frederick se ne sarebbe andato. Margaret si pentì dell'urgenza con cui l'aveva pregato di andare a Londra. Era come porre sulla sua strada più possibilità di essere scoperto. Se fosse salpato per la Spagna da Liverpool, in 2 o 3 ore avrebbe potuto essere lontano. Frederick si girò, trovandosi illuminato dalla fiamma del gas che crepitava in fervida anticipazione del treno. Un uomo, vestito come un facchino della stazione, avanzò verso di loro. Aveva un brutto aspetto, pareva abbrutito a forza di bere, sebbene fosse perfettamente vigile. «Col vostro permesso, signorina», disse, spingendo Margaret da una parte in modo rude, afferrando Frederick per il collo. «Il vostro nome è Hale, non è vero?» In un attimo, come Margaret non lo vide, poiché tutto davanti ai suoi occhi iniziò a ondeggiare, ma con una qualche abile mossa nella lotta, Frederick lo fece inciampare e quello cadde da circa 1 metro di altezza, poiché la banchina era rialzata sopra un tratto di terreno accanto al binario. Rimase lì per terra. «Corri, corri!» ansimò Margaret. «Il treno è qui! Era Leonard's, vero? Dai, corri! Ti porto io la borsa!» E con la forza che le restava lo afferrò per il braccio per spingerlo avanti. La porta di una carrozza si aprì e lui saltò su e quando si affacciò per dire «Dio ti benedica, Margaret!» il treno passò rapidamente davanti a lei. Rimase lì, in piedi, da sola. Era così pallida e si sentiva così male che fu sollevata di poter andare nella sala d'aspetto delle signore e sedersi per un momento. Inizialmente non riuscì a fare altro che ansimare. Tutta quella fretta, quell'angosciante pericolo, quell'enorme rischio. Se il treno non fosse stato lì in quel momento, quell'uomo sarebbe balzato in piedi e avrebbe chiamato qualcuno per farlo arrestare. Si chiedeva se l'uomo si fosse rialzato, cercò di ricordare se l'aveva visto muoversi, si chiedeva se non fosse magari rimasto gravemente ferito. Si avventurò fuori. La banchina era tutta illuminata, ma ancora pressoché deserta. La percorse tutta e diede una rapida occhiata con un certo timore. Non c'era nessuno. Provò quindi un certo sollievo per essersi costretta ad andare a controllare, perché altrimenti i suoi sogni sarebbero stati tormentati da pensieri terribili. Ma di fatto tremava a tal punto per la paura da non sentirsi in grado di andare a casa a piedi lungo la strada, che a osservarla dalla stazione tutta illuminata sembrava proprio deserta e buia. Avrebbe aspettato un treno di ritorno e vi sarebbe salita. E cosa sarebbe successo se Leonards l'avesse riconosciuta come l'accompagnatrice di Frederick? Si guardò attentamente in giro prima di arrischiarsi ad andare in biglietteria. C'erano soltanto alcuni funzionari della stazione, in piedi lì attorno, e parlavano tra loro ad alta voce. «Allora Leonards ha ripreso a bere», disse uno con aria in apparenza autoritaria. «Gli servirà tutta la sua millantata abilità di persuasione per tenersi il posto questa volta». «Dov'è?» domandò un altro, mentre Margaret, rivolgendo loro la schiena, stava contando il suo resto con le dita che le tremavano, senza il coraggio di voltarsi finché non avesse sentito la risposta a quella domanda. «Oh, non lo so. È entrato qui neanche 5 minuti fa, raccontando una certa lunga storia su una caduta che aveva fatto con terribili imprecazioni. Voleva che gli prestassi dei soldi per andare a Londra con il prossimo treno. Mi ha fatto tutta una serie di promesse da ubriaco, ma avevo altro da fare che stare lì ad ascoltarlo. Gli ho detto di tornare al suo lavoro e lui è uscito dalla porta principale. Scommetto che è a bere nella locanda più vicina», disse il primo che aveva parlato. «Anche i tuoi soldi sarebbero finiti lì se fossi stato così stupido da prestarglieli». «Figurati, sapevo molto bene cosa voleva dire la sua Londra, perché non mi ha mai restituito quei 5 scellini». E così continuarono. In quel momento l'unica preoccupazione di Margaret era che il treno arrivasse. Andò di nuovo a nascondersi nella sala d'aspetto delle signore, immaginando che ogni rumore fosse il passo di Leonards, che ogni voce forte e chiassosa fosse la sua, ma non le si avvicinò a nessuno finché il treno non si fermò. E venne cortesemente aiutata a salire nella carrozza da un facchino che non osò guardare in faccia finché il treno non fu in movimento. Solo allora vide che non era Leonards. 33. Pace. In casa pareva esserci una tranquillità innaturale dopo tutta quella paura e quella palpabile commozione. Il padre aveva assistito a tutta la preparazione del meritato spuntino al ritorno di Margaret e dopodiché si era seduto nuovamente sulla sua solita poltrona, sprofondando in uno di quei tristi sogni a occhi aperti che faceva sempre. In cucina, Dixon aveva Mary Higgins da dirigere e redarguire, e il suo rimprovero non era meno energico soltanto perché la rabbia veniva smorzata in sussurri. Infatti, parlare a voce alta le sarebbe parso insolente fin tanto che ci fosse stata una persona morta in casa. Margaret aveva deciso di non fare alcun cenno al padre di quel grande spavento giunto a coronare il tutto. Non c'era motivo di dirglielo, era andato tutto bene. L'unica cosa da temere era che Leonard si fosse in qualche modo fatto prestare abbastanza denaro per mettere in atto il suo proposito di seguire Frederick a Londra e di dargli la caccia lì. Tuttavia, un piano del genere non aveva grandi possibilità di riuscita e Margaret decise di non tormentarsi, pensando che tanto non avrebbe potuto fare niente per evitarlo. Aveva fatto tutto quello che poteva per mettere in guardia Frederick e in 1 o 2 giorni al massimo sarebbe stato sano e salvo fuori dall'Inghilterra. «Suppongo che avremo notizie da parte del signor Bell domani», disse Margaret. «Sì», rispose il padre, «suppongo di sì». Se potrà venire, sarà qui domani sera, credo. Se non potrà, chiederò al signor Thornton di accompagnarmi al funerale. Non posso andarci da solo, crollerei alla fine. Oh, non chiederlo al signor Thornton, papà, lascia che venga io con te, disse Margaret con un certo impeto. Tu, mia cara, le donne di solito non vanno ai funerali. No, perché non riescono a controllarsi. Le donne della nostra classe non vanno, perché non hanno nessun controllo sulle proprie emozioni e inoltre si vergognano di mostrarle. Le donne povere ci vanno e non si preoccupano di essere viste, distrutte dal dolore. Ma ti prometto, papà, che se mi farai venire con te non sarò d'impiccio. Non chiamare un estraneo, non escludermi così, papà caro. Se il signor Bell non potrà venire, verrò io. Se verrà, non insisterò contro la tua volontà. Bell non poté andare, aveva la gotta. Era una lettera affettuosa la sua che esprimeva un profondo e sincero rammarico per la sua impossibilità di partecipare alle esequie. Sperava di andare a trovarli presto con il loro permesso. Doveva occuparsi delle sue proprietà a Milton e il suo amministratore gli aveva scritto che la sua presenza era assolutamente necessaria, altrimenti sarebbe rimasto lontano da Milton più a lungo che poteva. E ora l'unica cosa che lo avrebbe rassegnato a quella visita necessaria era l'idea di vedere il suo vecchio amico e magari di confortarlo se fosse stato in grado. Margaret incontrò un'enorme difficoltà nel cercare di convincere il padre a non invitare il signor Thornton. L'idea che il padre facesse quel passo la ripugnava in modo indescrivibile. La notte prima del funerale giunse un pomposo biglietto da parte della signora Thornton per la signorina Hale, che diceva che per desiderio del figlio la loro carrozza sarebbe stata presente al funerale, se alla famiglia non dispiaceva. Margaret lanciò il biglietto al padre. Oh, lasciamo perdere queste formalità, disse. Andiamo da soli, tu e io, papà. A loro non importa di noi, altrimenti si sarebbe offerto di venire di persona e non avrebbe proposto di mandare una carrozza vuota. Mi sembravi così tanto contrariata all'idea che venisse Margaret, disse il signor Hale piuttosto sorpreso. E infatti lo sono. Non voglio assolutamente che venga e soprattutto detesterei l'idea che fossimo noi a chiederglielo. Ma questa mi sembra una tale derisione del lutto che non mi aspettavo da lui. Sbalordì suo padre scoppiando in lacrime. Era stata così contenuta nel suo dolore, così premurosa con tutti gli altri, così paziente e disponibile in ogni cosa, che non riusciva a capire il suo atteggiamento insofferente quella sera. Sembrava agitata e inquieta, e in risposta a tutto l'affetto che ora toccava al padre elargirle, non faceva altro che piangere ancora di più. Trascorse una notte talmente cattiva che non era pronta all'ennesima preoccupazione dovuta a una lettera di Frederick. Il signor Lennox era fuori città. Il suo impiegato diceva che sarebbe tornato al massimo il martedì seguente, che poteva forse essere a casa il lunedì. Di conseguenza, dopo alcune riflessioni, Frederick aveva deciso di fermarsi a Londra ancora 1 o 2 giorni. Aveva pensato di ritornare a Milton. La tentazione era stata molto forte, ma la prospettiva del signor Bell, che girava tranquillo per la casa di suo padre, e lo spavento che aveva preso alla stazione un attimo prima di partire, gli avevano fatto decidere di restare a Londra. Rassicurò Margaret, che avrebbe preso tutte le precauzioni per evitare di essere rintracciato da Leonards. Margaret era contenta di aver ricevuto quella lettera mentre suo padre era nella camera della madre. Se fosse stato lì, si sarebbe aspettato che lei gliela leggesse e l'avrebbe agitato a tal punto che sarebbe stato impossibile trovare il modo per calmarlo. Non era soltanto il fatto estremamente preoccupante che Frederick si sarebbe fermato a Londra, ma anche le allusioni a quel riconoscimento un istante prima di lasciare Milton e la possibilità di un inseguimento a farle raggelare il sangue, e poi come l'avrebbe presa suo padre. Più volte Margaret si pentì per aver suggerito l'idea di incontrare il signor Lennox e per aver insistito. Sul momento era sembrato che il ritardo causato sarebbe stato minimo, ininfluente su quelle possibilità apparentemente piccole che venisse scoperto, eppure tutto quello che era successo da allora portava a ritenere sbagliata quell'idea. Margaret lottava duramente contro questo suo rammarico, ora che al riguardo non poteva fare nulla. Il rammarico per aver detto una cosa che sul momento era sembrata saggia, ma che i fatti accaduti dopo avevano dimostrato essere un'idea totalmente insensata. Ma suo padre era in un tale stato di forte depressione mentale e fisica che non aveva forze per lottare. Avrebbe ceduto a tutti quei motivi di morboso rimorso per quello che ormai non poteva essere modificato. Margaret racimolò tutte le sue energie. Suo padre sembrò non ricordare che avessero qualche ragione di aspettarsi una lettera da parte di Frederick quella mattina. Era assorbito da un solo pensiero, che l'ultimo segno visibile della presenza di sua moglie fosse allontanato da lui e nascosto alla sua vista. Tremava pietosamente mentre il becchino gli girava intorno, sistemando i drappeggi da lutto. Guardò Margaret con nostalgia e una volta libero andò verso di lei con passo incerto, mormorando: «Prega per me, Margaret. Mi mancano le forze. Non riesco a pregare. La lascio perché devo. Cerco di accettarlo, davvero ci provo, lo so che è la volontà di Dio, ma non riesco a capire perché è morta. Oh, prega per me, Margaret, affinché possa avere fede per pregare. È una disgrazia, bambina mia.